Posso dire nulla della notte, apro il disco perché ho fatto delle cose che non si possono dire. Beh, penso che un po' nella notte. Comunque, no, proseguiamo con la nostra carrellata di parole, insomma, no? E dopo adesso vediamo se me le ricordo tutte. Porta, ruota, frigorifero, stelle, tubo. E ora siamo alla notte. Sì, esatto. E no, la cosa che mi sembra di notare subito è che la notte forse tra le, queste parole va più circoscritta che ampliata, nel senso che è talmente pervasiva, è talmente importante, c'entra così tante cose che appunto probabilmente quello che io mi immagino che lo sforzo sarà più quello di prenderne dei... come si dice, di avvicinare, insomma, no? Lo sguardo, ecco, più che aprire, ecco, perché insomma di notte si può dire di qualsiasi cosa, insomma, no? Dalla situazione effettivamente astronomica, no? Che quando il sole non c'è è molto semplice, insomma. Sì, c'è una notte anche del metaforico. Ecco, un buio, la notte dello spirito, l'anima, sì, dello spirito, certo, quindi una notte pensata come assenza, no, un di un problema, questo, cioè di Filippo, la notte ha da passare, no? Quando è un problema, ci devi fare annottato, da passare, annottato, esatto. Sì, poi associandosi molto al buio, no? Diventa anche qualcosa di sì, appunto assenza di qualcosa che per noi è positivo, come può essere la luce, anche simbolicamente, quindi diventa anche un contenitore, qualcosa di, anche di, delle nostre paure, delle nostre negatività anche, no? I mostri, le cose, no? Nel Medioevo, per esempio, la notte era collegata al borgo che era confinante col bosco, quindi era il luogo dove tu potevi incontrare delle presenze ignote, sconosciute, no? Certo. Delle forze della natura che molti negano, se sono folletti, entità varie, tipiche del bosco. Invece la notte della città, che è lontana, non c'è più il bosco, è la notte della trasgressione. Eh sì. Anche perché tutto sommato in città è abbastanza illuminata. Io, quando mi è capitato magari di passare qualche notte in casali, così mi dicevano che proprio non si vede niente, proprio zero, cioè tu, c'è proprio un buio pesto, no? Mentre qua, no? In città è difficile che si verifichi, ecco, questa proprio di non vedere niente, da quel che ho capito. Insomma, no? A me piace molto quando si fulminano le lampadine di qualche strada di notte, sia se Roma o altre città. E questa strada buia con una penombra molto fioca ha un fascino incredibile, pericolosa sicuramente, è per quello che l'illumina, però acquista un fascino particolare. Certo. Invece io mi ricordo da piccolo, stavo con mio nonno, tornavamo verso casa, una casa di campagna, ed era forse mezzanotte con la luna piena, dunque c'era la luce. E mi ricordo come oggi, mentre camminavamo in questa specie di brughiera, una vipera si mosse come un frusta, fece una luce da, sembrava un d'acciaio, me la ricordo come oggi, e si vedeva tutto, era veramente una luna piena che sembrava giorno, che la notte, che poi in realtà a volte anche può essere illuminata. Eh certo. Si può dire una notte luminosa, no? Non è un ossimoro. No, certo, certo. Però la notte, noi secondo me abbiamo una percezione della notte che è legata ai nostri tempi. Se tu viaggi in altri paesi dove, cioè mi ricordo in Africa per esempio, cioè, al di fuori della città, ma nemmeno di tutta la città, della parte diciamo più turistica della città, della parte più residenziale della città, cioè è buio, cioè, quindi poi la trasgressione è legata veramente poi a un'epoca moderna, se vuoi, cioè per come la intendiamo noi, sì, a meno che tu non ti dentro la grande città. Certo, capito, non... Beh sì, cambiano le cose. Cambiano, spalla, sì. Cioè. Certo. No, mi raccontava una mia amica che è stata su un'isola vicino a Giava, quelle isole lì, e ci sono delle isolette molto piccole, e diceva che appunto... quando il sole cade, lì non c'è più niente da fare, non è che... No. Cosa puoi fare? Se non può niente da fare, forse non è che appunto. No, nel senso che non puoi andare in giro, cioè c'hanno tutti vita, molti figli, sì, forse. Sì, è molto condizionata, no. Ecco. Si fanno i figli. Da fare volendo, si succedeva anche nelle campagne fino a... Sì, sì. Forse anche ai adesso. Primi anni 20. Poi... Nel 1900. Poi bisogna considerare che c'è anche una notte geografica, no? Perché come ti sposti, ti sposti a nord o all'estremo sud, ci sono delle notti che durano tantissimo, sì, e dei giorni che durano tantissimo. Anche quindi, la aurora boreale. Quindi... Beh, anche delle anime che sono vivono di notte per tutta la vita. Ecchime. Sì, sì. Anima e corpo. Se anima di corpo, l'anima. Io vivo relativamente tutta la notte fino alle 3:30 circa. Così di norma. E che combini di narrabile? Diciamo. Di narrabile tutto, in questo periodo, nel senso che faccio cose normalissime. Mm-hmm. Anche nelle vie senza luce, no? O dipingevo, adesso faccio montaggio video, musica senza luce, vabbè, alla fine. Avevo trovato questo che ho riportato un po' nella mail, questo proverbio che probabilmente viene da secoli fa, no? Che diceva che a me risulta inspiegabile, anche a te Roberto, no? Quello del che il lavoro di notte non val tre pere cotte. Una volta si evidentemente si sosteneva o c'era la tendenza a pensare che di notte non si lavorasse, ma si, no, si doveva. Sì, ma il problema era che si lavorava tutto il giorno, quindi esaurivi le tue la sera le forze esaurite. Quindi poi dopo proseguire la notte a lavorare non avevi più le forze in quel senso. C'era anche un ritmo diverso del sonno, no? Se pensi al Medioevo, non è che si dormiva, che so, 7 ore di seguito come adesso. C'era un altro modo di intendere. Ma poi la luce costava. Tra l'altro. Certo, in tanti posti la luce è cara. Eh sì. Cioè le candele costavano, quindi sì. Poi alla fine... Cioè chi si poteva permettere di continuare a fare delle attività alla luce delle candele erano poche persone. Sì. Cioè, tu, la tua vita era legata alla luce, sia le attività, attività contadine sia le attività artigiane, quindi poi era un erano gli artisti, ma anche l'artista, ma voglio dire, no? In quei luoghi lì che sono la maggior parte sono stati e tuttora sono, ce ne sono molti insomma nel mondo, e i bambini, no? Stavo pensando, i bambini, e per i bambini effettivamente la notte è buia, loro non hanno ovviamente accesso alle candele e quindi la notte è buia, la notte è buia, no? Ecco, mentre qua da noi meno, ecco, la notte è proprio buia e non hanno modo di uscirne, no? Bambini, quindi è proprio, cioè continua a essere valida in molte parti del mondo questa, abbiamo usato certo la parola prima, paura, pericolo. Sì, a proposito di mostri notturni, io ho un'idea del mostro della notte, della città, che forse vi sorprenderà, però voglio sentire prima qualcuno. Come lo identificate? Come, non so. Come? Chi potrebbe essere? Cioè, ognuno di noi ha un'idea di una presenza mostruosa. Tu, notturna. Per me. Per me, io lui lo sa, una volta gli ho regalato pure un rosario, perché lui c'ha proprio il viso da demone, c'ha le orecchie da demone, la rosario, struttura, hai capito? Vabbè, ma per esorcizzare la sua mente, cioè lui comunque è un demone, buono ma è un demone, cioè io lo vedo tipo un associato di Nosferatu, no? Vabbè, poi invece come... Quindi Valerio De Filippi è l'icona del mostro. Il mostro della città. Il mostro di via Arezzo. Questo è l'ultimo incontro che facciamo, eh? Dai, passamela Valerio. Sentiamo qualcun altro che... Mi sa che t'ho visto quando ho visitato Notre Dame. Per me attualmente sono Paolo Torella e Giampaolo Azzeni. Perché non avendo fissa dimora, due artisti, sì, io ho due figli che mi seguono. Che mentre sei grande a via ti chiedono quindi esatto. Per me sono I veri mostri della notte sono gli amici che a una certa ora ti chiedono ospitalità. Ti bloccano la tua. Questo è il mostro. Al di là delle persone, chi potrebbe, quale cosa potrebbe essere un mostro o entità che magari non è una persona, ma della notte? Della notte che si vede, la mia, allora il mostro dire, che io che mi terrorizza quando cammino di notte, vedere le TV accese nelle, che lampeggiano nelle finestre aperte, come penso la TV sia un mostro oggi, perché nasce negli anni 50 come uno strumento educativo, culturale, no? Adesso è uno strumento di controllo che attraverso ad esempio le fiction ti cambia la tua percezione delle cose, ed è tutta pubblicità, che sia telegiornale o spot o fiction, è tutta una pubblicità che ti induce a che tu devi pensarlo in quel modo. Ma se io pensavo la stessa identica cosa, che sono tornato adesso dal Brasile, sono stato un periodo lì, e lì la televisione dice che di notte non si può girare per strada, perché... Pericoloso, cioè qualsiasi persona che incontri ti consiglia vivamente di non girare di notte, soprattutto per certi quartieri, insomma. E invece mi sono trovato a girare di notte da solo, ed effettivamente non c'è nessuno. Quindi ti trovi da solo completamente. Avevano senza... paura di te, quindi. Perché eri l'unico che girava. Eri tu il mostro. Tu eri il demone. E non c'è veramente nessuno. Sì. E poi se uno come te pensa che l'altro è l'assassino, no? Sì, sì. C'è quella canzone di Gaber che si incontra per strada esatto. Con. Sì, la conosco. Ognuno pensa che l'altro è il potenziale aggressore, che nasce una serie di equivoci. Ecco, questo. Perché appunto noi siamo la notte di noi stessi, noi appunto il concetto di notte, no? Dipende da noi, insomma, no? Ah, beh, pensavo che adesso, per esempio, io ho una posizione particolare verso la notte, il giorno, no? Ovviamente per me è un po' più indifferente da un certo punto di vista, non da tutti ovviamente. Però io stavo pensando che per me invece la notte, da un punto di vista acustico, è molto più nitida, si vedono molto meglio le cose di notte con le orecchie. Io per esempio, se apro la finestra di casa mia, io sento una fontana che sta a una certa distanza e durante il giorno io non la sento, è come se non esistesse. Ieri mattina ho accompagnato mia figlia alle 4, no, a Ciampino, tornando a Roma. Vabbè, a parte non c'erano macchine, alle 5 quindi giravo per Roma, non c'erano mai in centro, Colosseo, eccetera, quindi proprio il centro, non c'erano macchine, ma poche macchine, ma quello che era incredibile era pieno di uccelli, pieno del sì. Quando pieno. Non c'è, ma un po' probabilmente perché i predatori anche dormono, tutte diciamo pieni ormai di gazze, no, cosa sono, cornacchie, cioè, e di gabbiani, probabilmente anche quelli dormono la notte e quindi tutti gli uccellini probabilmente riescono a vivere di più, ma pieno di uccelli che cinguettano. Ecco, questo mi ha colpito, sì. Perché la banda delle frequenze che ascolta l'orecchio è limitata, se c'è qualche suono che comincia a saturare alcune frequenze, ti spariscono. Come quando sei, non so, in treno, io fatico molto a sentire la musica classica, per esempio, perché mi perdo tutta la fascia bassa, perché il rumore del treno me la copre, no? Quindi io non sento le voci basse. Quindi è come se saturasse il treno, proprio acusticamente, la zona bassa. Il giorno fa così, no? La città comincia a crescere, no? Quei suoni anche molto gravi, che noi magari non distinguiamo bene, ma sono tutti sotto e cominciano a sottrarci varietà di suono, no? Cominciano a mangiarcelo, no? E questo di notte quando sparisce, quando comunque il traffico anche intorno alle vie mie, per esempio, no? Che sto lì, zona Tiburtina, così, verso le 3 sono quasi silenti, no? Quindi si svuota tutto. Io sento ancora il rumore delle strade più grandi, lontane, ma le sento molto lontane. E quindi è come se la notte in realtà illuminasse da un punto di vista degli orecchi, no? È interessante perché si inverte un po' la cosa. È anche più comodo per quando mi trovo a girare da solo di notte, è molto più comodo perché è tutto molto più chiaro, attraversare le strade è tutto più semplice, più... non ci fosse il fatto che c'è più freddo, non so, e poi se hai dei problemi non c'è un cane, insomma. Ma in realtà vale per il suono, ma vale anche per la luce, no? Di giorno il fatto di essere tutto illuminato, beh, è il discorso che facevamo prima, il fatto di essere tutto illuminato, c'è una tale confusione, una tale enormità di cose, invece la notte, no? C'è più concentrazione, no? Anche per la vista, no? Perché quelle poche cose che vedi, le incontri una alla volta, no? Una luce per essere vista ha bisogno di una notte intorno di me. Esatto, sì. Tra l'altro. Prima parlavate di Africa, era incredibile appunto in questi posti bui, no? E totalmente bui, poi quando non c'è la luna. E loro sono neri anche, no? E quindi quando ti sarai in giro di notte, no? Ah beh, ovviamente non andare in giro di notte che è pericolosissimo, invece ci vai e non vedi neanche loro, perché sono neri e si confondono col buio. I Masai. E quando ti salutano invece sorridendo, allora vedi i denti. Però magari far vedere i denti vuol dire ti sto per mangiare qualche tribù. Vabbè, io non sono stato mangiato. Sei ancora qua. Anche perché c'è poco da mangiare. Forse non che sono male. Non voglio dire. Forse il direttore della fotografia quando devono camminare le persone. Ti guarda, non ti pesa, ne fanno. No, guarda, troppa fatica. No, infatti è così, per esempio le persone di colore quando le devi riprendere al cinema e c'hai una situazione, diciamo, con una persona, un bianco, delle persone di colore, hai molti più problemi a illuminare la scena che non. Perché tra un bianco e un nero ci sono tipo 6 stop di diaframma, non è una cazzata, cioè dover fare una scena. Cioè, quindi devi scurire la faccia dei bianchi in qualche modo. Sì, scurire. Perché sennò troppa luce, poi poi riflette, quindi la sporca tutto il ruolo. No, ballava giù lei. Ah, un po' d'acqua. Per cui in realtà, no, quando noi diciamo l'uomo nero che fa paura, no? In realtà l'uomo nero si è molto più nella notte, è molto più in sintonia con la notte. Rassicurante. Perché è il bianco che lampeggia, che no? Che, Sì? E qui appunto sì, io proporrei di introdurre il tema della ricchezza appunto della notte, no? Appunto, no, è anche c'era un libro Voyage à bout de la nuit di Céline. Ecco, sì. Sì. Insomma, no, un tesoro è sempre sotterraneo, è sempre nel buio, è lì, è nel buio che aspetta il tesoro, no? Non è mica se no. E quindi appunto, no. Io volevo sentire anche Alberto, che c'ha la barca a vela, che di notte viaggia, cosa si può dire, no? Deve essere... io sono salvo un traghetto, non ho mai... Ma deve essere molto poi diverso. Poi il mare di notte, no? Proprio la superficie trova del mare di notte, no? Si trasforma, no? È incredibile. E cosa dire? Galleggiare su questa superficie di notte non è come di giorno, quando c'è, ci sono le nuvole, non c'è la luce, sei immerso nel nero più totale, esatto, ti si allunga il tempo, perché poi cosa strana, lo spazio è il tempo, si allungano lo spazio e il tempo, diventi infinito, sì. Una cosa lunghissima. Beh, io mi ricordo, però ci sono delle notti in cui quando c'è la luna, luce della luna fa dei giochi sull'acqua che sono, tolgono il respiro, sì, per la bellezza, per cui non è sempre... Io ho sempre sofferto il passaggio, quello che veniva a innavigare, l'ora che i naviganti intenerisce il cuore, invece lì a me inizia il terrore. Proprio in quella spazio temporale in cui il sole sparisce e inizia la vera notte, poi durante la notte però non hai quella sensazione di paura. Il passaggio. Cioè, da non confondere con la notte improvvisa oppure un'eclisse, lì ti senti male probabilmente. O The Dark Side of the Moon, però, che è la notte più notte che c'è. Però la notte in mare, quando stai in mare aperto e quindi non vedi le luci della costa, cioè, paradossalmente hai una... Io quelle volte ci sono stato, una tranquillità maggiore, perché tu sei solo. Cioè intorno a te non c'è nessuno, quindi le presenze spaventose non ci sono, non ci possono essere. Questo perché le vedi in mezzo al mare di notte. Sì, ma da solo, perché se stai in una barca da solo è un discorso, se stai sopra una nave. No, se stai in una barca da solo, io per esempio ho fatto un senso di paura ti viene a volte. A me, io personalmente in mare non ho mai avuto, cioè quando io in mare ho avuto paura quando c'è durante la burrasca, ma quando il mare è tranquillo, io ho fatto dei documentari in mare e facevamo delle riprese delle balene. E una notte in mezzo tra il mar, la costa di Sanremo e la punta della Corsica, noi stavamo esattamente a metà, tipo a 40 miglia in mezzo al mare, e ci avevamo tutte queste balene intorno a noi che spruzzavano, che stavano, e io a quel punto, siccome stavo col microfono e il rumore della barca a vela, cioè tutte le scotte sbattevano, a un certo punto io mi hanno messo su un gommone, io da solo con il registratore e il microfono, e hanno filato tipo 50-60 metri di corda. Io stavo in questo gommone a 100 metri dalla barca con le cuffie e il microfono a cercare di di prendere il rumore pulito delle balene che spruzzavano quando uscivano, e io non mi sentivo, eppure ero veramente solo, nel senso che anche metaforicamente stavo su un gommone senza, cioè, senza motore, senza niente, cioè con la barca a 100 metri in mezzo a 40, 50, 60 miglia di mare aperto, eppure io stavo, cioè, forse ero concentrato su quello che facevo, ma non ho mai avuto la sensazione, stavo al buio, nel senso che poi c'era pochissima luna e quindi vedevo, cioè, la luce della barca laggiù, sì, eccetera. Ma si vedeva l'ombra delle balene? No, che io sentivo, io prendevo solo il suono, cercavo. A me è capitato una cosa simile, che se mi è spuntata una balena di fianco e devo dire che ho fatto una corsa all'interno della barca precipitosa. Perché mi si sono sollevati i capelli dalla paura. Veramente? Perché ha spruzzato. Era pochi metri dalla fiancata, per cui ha soffiato. E non so, forse, sì, forse ancestrale, il terrore ancestrale della non balena. Cioè, l'animale più grande che c'è, mi sa, la balena. Sì. Poi, cambiando il discorso leggermente, penso ai luoghi che di giorno non ci fanno né freddo né caldo, diciamo così, e mentre di notte hanno paura. L'esempio classico è il cimitero, che noi associamo ai morti, che di giorno noi andiamo anche a visitarli, a volte siamo rilassati, belli, tranquilli. Però di notte ecco che cambia tutto. La notte c'ha anche le sue paure, certo, anche ancestrali, ma ci stanno parecchio. Ciao. Ciao. Ciao. Siamo in cimitero. È arrivata un'anima della notte. Sei proprio rinata. È stato proprio il momento. Oppure ha sentito, c'è il feeling. Esatto. Sì. Ti devo chiedere dell'ottimo vino. Eccomi. Ah, allora dell'ottimo vino. Io volevo un po' d'acqua, cara. Sì. Ah, scusa. Sì. No, non ti preoccupare. Magari prendo una bottiglietta anche se ce l'hai. È vero? No. Però va bene un bicchiere di acqua. Senti, forse è arrivato il momento. Non è quello che devo fare. Il cimitero, sì. Ah, ecco, eravamo al cimitero. Sì, c'erano gli spiriti. Che diventano dei nomi. Ti si iniziano veramente i capelli di notte dentro il cimitero. Sul serio, a me mi è capitato. Perché dicevamo anche a me. Da ragazzi, per vedere chi era più coraggioso, ma io avevo paura, però per non far vedere che ero più fifone degli altri, ho fatto il giro del cimitero, ma ti dico, ho giurato di non farlo mai più. In un attimo ti immagini che stanno dietro, che non so che cosa è attorno, i demoni. Insomma, mentre di giorno noi possiamo passare il verano parlando di loro, entrarci, anche anzi, molto bello. Mi dicono qua che qualcuno di voi ha delle poesie sue sulla notte. In realtà io ho portato qualche poesia, ma fare delle poesie apposta in un giorno sulla notte non è facile, quindi pensavo di leggere qualcosa anche. Certo. Qualche, forse un po' di buio ci sarà, però non lo so. Anche una poesia d'amore. Allora tu fai qualcosa. Se vi va, poi leggo qualcosa. Sì. Portato quel video. Metaforicamente. Mentre voi parlate, io magari guardo qualcosa. Ma voi pensate che la. Però è soltanto un'illusione la notte, lo dice pure una canzone famosissima, no? Che Come dice questa canzone? Darkness is just an illusion. Uh-huh. È un'illusione dello spirito, è un buco nero dell'anima, un passaggio attraverso un'altra. Se, no? Certo. Nella notte, però è un'illusione anche quella. Lo sai, stavo dicendo sempre con Marco delle canzoni in inglese, no? Delle canzoni in inglese, insomma, americane, inglese. E tantissime volte c'è il termine night, nelle sì. canzoni, anche, certo. anche senza motivo, perché è proprio ricorrente in una maniera impressionante. Ma anche uno che non sa l'inglese, tipo io, che proprio sono ignorante, però a volte l'unica parola che capisco, che ricorre sempre, è night, tonight, all the night, in the night, because the night. È proprio una costante. Io non so, perché lei ha citato appunto una canzone in inglese, no? E ho notato questo, stavo notando proprio insieme con Marco questo fenomeno, che non so cosa è dovuto. E dopo che me l'hai detto, io ascolto le canzoni e c'è sempre, è vero, questa cosa. Probabilmente perché crea un fascino, già la parola perché la notte abusano, e anche il crollo delle maschere, le rilassamenti di cose, c'è anche una percezione completamente, oppure il lato scuro di sé, il lato scuro di sé, le sfumature, più il lato scuro di sé, perché in realtà si insegna al bambino a non aver paura del buio, per quello, no? Ah già, sì. Quindi la notte, se uno la vive, è perché ce l'ha dentro, non è che è fuori la notte, tutto è luce. Poi alla fine, cioè, anche quando hai la possibilità. Addirittura la notte, cioè l'oscurità assoluta, sia non so quale profondità del mare, perché c'è sempre uno spiraglio di luce, anche nei fondali marini più scuri, la luce penetra sempre. Sì, fa una certa profondità. È rilevabile. Quindi l'essere umano evidentemente passa dei lati oscuri del sé, come, certo. come Darth Vader in Guerre Stellari. Il lato oscuro. E per Dio non so chi mi droga di notte, mi stupra di sotterfugio, un'anemone a fluttuare in buio marino, un verde d'ortica a baciare il sole mattutino. Ho ancora un'ancora per aggrapparmi a tre quarti e vada al diavolo il sorriso falso. Crepo se non carpisco il senso del crepuscolo. E l'amore a quest'ora si inventa. Mentre fa buio, la donna sola riposa sognando. Ma non sono innamorato di te, ma della luna pallida sui colli scuri. Come un licantropo. Vabbè, sono legata alla notte senza volerlo. Vedi che bell'uso delle parole. Bene. Molto attivo. Parole moderne. Può prendere una cosa? Parole. Una poesia di Tommy Banks. Sì, che come notte e giorno, buio e luce siano alla fine delle cose compresenti, che hanno bisogno l'una dell'altra, no? Quando spesso, soprattutto nelle impostazioni anche un po' che anche vecchie, insomma, anche di un tempo, dove si contrapponevano molto le due cose, no? Per esempio, vi racconto che una delle più grandi stupidaggini storiografiche, no? Deriva proprio dalla metafora notte e giorno, quando si definì per molti secoli il Medioevo i secoli bui, no? Sì. È una tesi del tutto errata, che non regge da nessun punto di vista, però per molti anni, per molti secoli, questa tesi, che tra l'altro aveva anche un intento politico, culturale, era stata aveva anche questo tipo di intento, non era una descrizione della verità, insomma, no? Era così. E comunque, usando questa metafora, no? Di contrapporre un periodo che per comodo veniva definito terribile, malvagio, eccetera, eccetera, contrapporlo col periodo luminoso, no? Che poi Rinascimento dei lumi, ecco, questa metafora della luce veniva contrapposta, quindi il bene che finalmente sopravanza il male, questa stupidaggine, no? Alla fine. E invece oggi penso che ci siamo un po' accorti, ma non oggi, perché noi siamo più bravi di quelli vecchi, ecco, però la compresenza, c'è bisogno, se c'è una notte, se c'è un buio, c'è una luce, se c'è la luce, c'è un buio, se c'è una notte, c'è un giorno, no? Sono due cose proprio. Però le due facce della stessa cosa. Però anche nella lingua è così. Cioè, se io parlo di una persona, posso dire che è una persona oscurantista, una persona illuminata. E automaticamente gli attribuisco un valore, un significato positivo o negativo, in fondo. Cioè, anche la lingua italiana perlomeno cioè, contribuisce a, a dare un'accezione negativa alla notte, quindi che è portatrice del buio, dell'oscurità, e al giorno che invece è portatore della luce, quindi se ci pensi forse perché la luce è vita. Sì, però ci sono gli animali notturni che vivono di notte, quindi ci sta scrivendo anche la notte. Ma se fosse sempre una notte, ma probabilmente c'è bisogno dell'una dell'altra. Esatto. Ah, sì. Thank you. Sì, certo. Quando i guerrieri, tra di loro, dicevano goditi la vita, il giorno, la luce, per dire appunto che ricordare che erano in vita. Invece Tony Banks, che è il tastierista dei Genesis, che ha anche fatto delle musiche dell'album solo, è autore di quasi tutti i pezzi dei Genesis, lui è pianista, e si è scoperto che scrive anche bene delle poesie, ha scritto: forse un giorno, prima che muoio, aprirò quella porta, forse griderò, ma per ora vivrò nel buio. Ribaltando completamente la visione dei greci. Per lui il buio è essere vivo, è la luce dopo la morte. È completamente opposta. Sì, interessante. È molto interessante. Beh, ci sono tante creature che vivono di notte, che sono uccelli, rettili, sì. Anche umani. No, rettili, scusami, anche i roditori, le farfalle notturne, sì, certo, per esempio, no, il geco, l'animale, un rettile che vive di notte, fortunatissimo, il geco, esce fuori solo al tramonto, dopo il tramonto. Però è anche vero che noi abbiamo scelto di dormire la notte perché diceva perché ci stanchiamo, però durante la notte che c'è buio noi ci riappropriamo della luce attraverso il sonno, ecco che allunghiamo il giorno a volte anche durante la notte. Però per esempio cioè, è la, alla fine è la genetica che stabilisce che fa sì che certe creature siano più adatte al giorno, più adatte alla notte, perché per esempio la visione notturna, l'olfatto, noi che non siamo dotati di olfatto, di un olfatto particolarmente sviluppato e che non siamo dotati di una visione notturna, cioè noi avremmo molta difficoltà a vivere in un ambiente oscuro adesso, mentre invece un sacco di animali di fatto non hanno la vista, hanno l'olfatto come senso primario, e questi animali possono vivere anche di notte. No, anche perché, la vista, perché cioè, un gufo caccia di notte. Sì, ma infatti il gufo paradossalmente di giorno è cieco, no? Perché non troppa luce. C'è troppa luce che non riesce a vedere. Come le talpe. Ma questo è un discorso quasi scientifico, magari. Sì, è vero. Vabbè, questo è un adattamento evolutivo. Cioè, però poi ci sono animali che vivono perennemente nel buio, tipo appunto quelli anche pesci abissali, quegli animali che vivono nelle grotte, perennemente nel buio, penso solo alla palpa. Per loro non esiste la differenza tra giorno e notte, è un eterno perché è tutto buio e non sempre riesco a accendere la luce. Ma voi non è mai capitato di avere delle angosce notturne, assorbe qualsiasi forza di luce su problemi che uno ha nella vita, non riuscendo a dormire, che crescono a dismisura e poi scemano con la luce del giorno? Beh, se io sicuramente mi capita al contrario. A me mi capita l'ansia. A me l'ansia mi prende quando comincia il giorno. Anche a me. Anche a me. Cioè, non, però l'angoscia non è mai capitato di avere uno. Non riuscire a dormire mi è capitato. Però in generale. Che cresce in modo anche irragionevole, perché poi alla mattina capisci che il problema non è così complesso, non è così travolgente. No, a me mi capita esattamente il contrario. Da non confondere comunque l'angoscia con l'ansia, sono due cose completamente diverse. Sì, l'angoscia è un altro discorso. Proprio l'angoscia di un problema che poi vedi che alla mattina con lo spuntare della luce scema poco alla volta, cioè è risolvibile, mentre durante la notte cresce in un modo esponenziale, in qualche modo distorta, no? Che deriva dalla notte. La notte ti porta quasi una percezione distorta della realtà. A me è successo il contrario, un'amplificazione. Non avevo nulla di distorto invece la notte. Ero come un gatto, non riuscivo, cioè camminavo in casa pur conoscendola naturalmente, senza sbattere mai. E in effetti i gatti sono dei felini, sono anche dei predatori, La notte vedono benissimo. Ah, ma vedono molto meglio di notte che di giorno. Infatti. Certo. Sono qua. Io ho avuto un periodo più attivi di notte, che muoiono, si abituano al nostro stile di vita, però se fossero lasciati liberi normalmente vivrebbero la notte molto, in maniera molto più attiva che di giorno. Eh sì, certo. Essendo dei predatori, no? Sì, sì, certo. Sono proprio adattati alla vita notturna, proprio gli occhi, con gli occhi, no, i sensi. No, vedono. Ma loro non luccicano come a loro, no. Comunque, tornando. Di luce, allora, da una piccola fonte. Io cerco di tenere. No, dico. Riallacciandomi al discorso del mare e della notte, senza volerlo, ho trovato qualcosa. Vai. Nero mare. Quale mare mi porterà via? Io che desisto e ho dentro il furore, e quale amore? Le fiamme si spengono e passa un giorno intero. Ora penso a tutto tranne che a me. Mi bastano i ricordi sotto le nuvole, a giugno, sopra ogni fiamma di ogni fiore. E nero mare sotto di noi, è calmo, il barcone va. Questo è legato al buio marino. Questo rapporto tra il mare e la notte, in qualche modo parlando, viene fuori spesso una relazione tra la notte, il buio e il mare, forse un ancestrale ricordo del periodo forse da notte prima della nascita, in cui c'era nella pancia il buio, periodo amniotico, quell'assenza comunque di luce. Come direbbe un comico, la notte fa paura, il mare pure, il mare di notte è peggio del mare. È l'inquietudine, sì, perché il mare è Ma il mare, quando stai in quelle situazioni dove il mare è particolarmente, l'acqua è particolarmente trasparente, poi vedi proprio il come dalla sfumatura, dal chiaro, no? Diventa sempre più scuro, più blu, e poi arriva, c'è un blu che è nero, ma cioè non, tu però non hai la percezione che è nero perché c'è le sfumature del blu, cioè vedi proprio un blu che diventa sempre più scuro. Comunque è più inquietante il giorno che la notte è più pacifica. Io sono stata a vivere in campagna per un anno, lui ha visto che posto, c'era un tempio, il mare davanti, tutto, e di notte era meraviglioso, no? Se penso alla città di giorno, è l'inferno. Sì, ma infatti la natura poi non è che fa distinzione, ha responsabilità. No, no, è infatti, l'uomo, è che l'uomo, fa l'uomo, sì, sì, a volte. Sì, sì. No, esatto. No, ma sono tutte le nostre paure, è tutto una questione di percezione. Io ho avuto un'esperienza di salire in piena notte, stavo in barca. E lui dormiva, e io ho sentito dei rumori dell'ancora perché c'era moltissimo vento, e però ho avuto il coraggio di salire su e vedere tutta questa immensa distesa di acqua meravigliosa, e la cosa bellissima che ho visto era il plankton che si muoveva sulle acque. Stavamo sotto una scogliera ed è meraviglioso. Non vi nego però che ho avuto il terrore cioè, per me era la prima volta trovarmi in una situazione simile, però ho avuto il coraggio di farlo, cioè di uscire fuori e farmi il giro di tutta la barca. E avevo il terrore di vedere guizzare qualche balena, qualche squalo. Io ho sempre avuto paura di farmi il bagno di notte, sì, ma anche a Ostia. No, poi in realtà non c'è bisogno di avere, sono tutte le nostre paure. Beh, cioè, insomma, a Los Angeles, mi ricordo, arriva, c'erano gli squaletti che mangiavano i piedi, cioè ci stavano veramente. Sì, ma in realtà sono tutte le nostre paure, poi non c'è nessuno, e invece ti godi quello che la natura ti offre, che purtroppo l'uomo sta uccidendo, no? Però per esempio l'Africa, in Africa per esempio la notte è pericolosa. Tutti i posti dove la natura è preponderante, la notte è pericolosa, ad esempio anche la città è pericolosa. Ah sì, però no, che ne so, se te vai nel deserto, in un deserto qualunque, io adesso sono stato in Messico nel deserto, non ho visto il deserto africano, però ho visto questo del Messico e di giorno non c'è suono. È impressionante, c'è un silenzio incredibile. La notte senti i suoni, senti gli animali, senti il vento, senti la natura che è viva. Di giorno non c'è questa cosa, di notte hai paura, di giorno non c'è questa percezione. Infatti la natura non è che... Penso pure nel resto del mondo, in Africa, in qualsiasi altro posto dove la natura regna in maniera così, in maniera potente. Ci sono zone in Africa in cui la seconda causa di morte dopo le malattie sono gli ippopotami. Sembra una stupidaggine, ma l'ippopotamo è un animale che ha una pelle particolare, per cui di giorno col caldo deve stare nelle pozze d'acqua, se fa sempre l'acqua. Esce la notte. Esce la notte per mangiare, ma e mangia tutta la notte. Aiuto. Allora, spuntino. Siccome dipende dalla sua salvezza e l'acqua. Cioè, se tu di notte ti metti tra l'acqua un ippopotamo, l'ippopotamo ti attacca. Sì, è un pericolo, ma lui ti percepisce come un pericolo. Perché tu non lo vedi, ma lui ti vede. Tu stai tra lui e l'acqua. Tra lui e l'acqua. Quindi lui ti carica. Quasi incontrare un ippopotamo che un leone. Ma tra l'acqua e l'ippopotamo. Anche l'acqua è un ippopotamo. Invece sta lontani dall'acqua, insomma. Una delle... C'è sempre il rapporto tra l'acqua e la notte. È una cosa che torna. Il, per esempio, ora che il Sudafrica è il paese più ricco della zona meridionale dell'Africa, c'è un sacco di immigrazione dai paesi vicini, dal Mozambico, dalla Namibia, da tutte quelle parti lì. Gli immigrati cercano di passare il confine durante la notte. E quindi tantissime sono, siccome sono per esempio il confine tra il Mozambico e il Sudafrica è costituito dalla maggior parte dal Kruger Park, questo parco naturale grosso tipo come il Portogallo, e quindi durante la notte centinaia di clandestini cercano di entrare in Sudafrica e quotidianamente ce ne sono decine che vengono uccise dagli ippopotami di notte, mangiati anche magari da altre bestie, sì, però uccisi dall'ippopotamo, perché l'ippopotamo è un animale che so, 2 tonnellate d'animale che in pochi metri raggiunge i 40 km all'ora, è come se tu vai sul Lungotevere e ti investe una Mercedes familiare, insomma, di notte non lo sai. Magari gli ieni fanno un lavoro sporco. Finiscono il lavoro. Sì, finiscono un po'. Lasciano il popolo, ma uccide un leone. Pure. È stato postato. Sì, l'ho messo. E noi ci hanno imbrogliato con la storia dei pannolini. Quando avevamo la pubblicità del pannolino. Pippo. Perché? E Pippo, non so, era blu però, Pippo Tommaso, perché lui ha dei denti quasi canini, anche se è un erbivoro. Ah, c'ha delle zanne vere e proprie, tipo quelle dell'elefante. E quindi per questo leone, la testa del leone la schiaccia, il leone muore all'alba. Però è stato aggredito da una ventina di leoni, tutti che gli salivano addosso. Poi lui si gira, prende la testa del leone tra le zanne, lo scuote, poi scappa e va in acqua e si salva. Sì, sì. E il leone, cioè, c'è la telecamera per far vedere il leone che muore in agonia. Tutto ferito, con un buco qua sotto che aveva. Mamma mia. Gli ha traforato la mascella al leone. Perché era piccolo, era un punto della sua stazza. Ma come un maiale, in realtà sono più simile alla famiglia dei suini. Io ho fatto un'immersione in ippopotamo, oltre alla squadra quando mi è passato davanti l'ombra bianca di una squadra, devo dire. Sì. Era abbastanza preoccupante. A me un delfino in Croazia e ci ho avuto paura. stavo in mare con il delfino. È un animale grande, è grande il doppio di uno, tre volte. Cioè, no, vederselo con la mano, cioè, è una cosa. Delfino, un conto un documentario, un conto stare immersa nell'acqua con la maschera e vedersi un delfino che. Perché poi anche se ti prende giocando, no? Peserà qualche quintale. Ma è una cosa enorme proprio. Che... E poi sono arrivati gli altri, perché non certo, è mai il solo. Infatti ci sono i delfini pure squali. Cioè. Volevo darvi una nuova suggestione sulla notte. La notte è pensata come trasformativa. Chi di noi veramente, quando si addormenta, sa se si risveglierà e chi può dire se quando ci risveglieremo saremo o passerà la notte noi saremo la stessa persona di prima. Ci sono due notti famose nei romanzi d'Ottocento, la notte dell'innominato di Manzoni e la notte di Jean Valjean quello dei Miserabili, dove una persona, e lì è molto evidente che era un tipo di persona prima di passare questa notte, questa notte lunghissima che è descritta 100 pagine lunghissimamente tormenti e passata questa notte tutto cambia, questa persona non è più come prima e è interessante perché ci sono anche prima di grandi battaglie ci sono delle. Non so, c'è una tragedia di Shakespeare, no? Dante prima delle battaglie. Cioè la notte è come qualcosa. Shakespeare tutto di notte. È un intercapedine che trasforma una cosa. Anche apparizioni. Certo, di Erasmus. Sì. Nella Metamorfosi di Kafka inizia dicendo: Prego, si svegliò da sogni inquieti. La prima scena di notte appare il fantasma. Quindi ecco, sembrerebbe quasi che la notte è uno spazio di trasformazione dove uno veramente può decidere di lasciare la moglie, può prendere delle grandi, scappare di casa. No? Ecco perché la gente si sveglia e uccidere qualcuno. Mattina cambia tutto. Ti fa prendere delle grandi decisioni. Anche. È l'uomo nero che ti dà il consiglio. Lo dicono anche la notte porta consiglio. Sì. La notte porta consiglio, da passare nottata. Ma quale consiglio? Non bisogna giudicare. No. Di notte tutti i gatti. Comunque gli spiriti di solito invadono il corpo dalla schiena di notte, quindi è anche facile questo, chissà secondo perché. La tradizione vedica, no? Chissà perché la notte. Cioè i fantasmi senza corpo che sono intrappolati tra una dimensione e l'altra prendono il corpo di notte dalla schiena. Perché tu non sei vigile. Approfittano del sonno. Del sonno. Chiaro, non è proprio la notte, è il sonno che è condizione. Sì, sì. La notte. Intendevo notte come diceva Maggiormento. E... Nel senso, perché nella notte siamo più indifesi. Siamo aperti. Sì. In alto. Siamo più indifesi anche con i sensi più aperti a trascendente. Perché la nostra ragione non è vigile, no? Siamo aperti al sogno, a tutto quello che viene da altre dimensioni, altri mondi. Che mistero che la notte. Sì. Come si fa a sognare di giorno? È impossibile. Più che altro incubi di giorno. Sì. Ma anche perché c'è meno occasione di star tranquilli. Sì, ma poi infatti chi... Quella notte è piena di assassini. Anche. Ecco. Viene di assassino. Stavo guardando, ho visto il film di Quentin Tarantino, l'ultimo, che infatti da questa banda doveva aspettare la notte per assassinare questo qua e liberare, non so se l'avete visto, l'ultimo film di Quentin Tarantino. Qual è? Come si chiama? Gli otto odiati. Sì, gli otto orribili, una cosa di tradotto. Sì. E adesso al cinema è qua. Sì, uscito, l'ho visto per 4 giorni. Andare, io devo andare. Vabbè. Fantastico. Chi piace il genere? Come? Gli otto odiati. Odio, gli otto odiati. E questa cosa qua dell'addormentarsi i bambini, no? Il bambino lo vive con molta paura, no? Il momento in cui già fin da quando è lattante, no? Il momento in cui perde, in cui entra, in cui si addor- quel passaggio fra veglia e addormentarsi, no? Si risveglia impauritissimo, no? Proprio questa paura di ma dove sto andando? Perché è una cosa che no. No, e poi quando è un po' più grande, poi allora quando ha paura, no? Di addormentarsi e chiama i genitori, no? E vuole stare col dormire con la luce accesa. Vuole dormire con la luce accesa, vuole stare nel lettone con i genitori, la tieni la mano. E però non lo so, forse chissà che appunto, no, questi spiriti che arrivano, oppure semplicemente il fatto che sogniamo, no, la notte. E questa avvicinarsi, cioè trovare un rapporto amichevole, no? Con i sogni, con quello che succede nel sonno, no? Forse può aiutare un bambino o un adulto, no? E prima dicevamo la razionalità come ti dà gli incubi, no? E invece appunto, no? Questi altri mondi in realtà ti cullano molto di più, insomma, sono più le volte che ti cullano di quelle che ti spaventano. Beh, è bello, no? Quando uno fa un incubo e poi ti accorgi che sei nel tuo letto al sicuro, ad esempio, con un bambino ti rigiri dall'altra parte, appunto, è un sognato. Per cui appunto, no? Forse questi bambini li si può, forse i bambini li si può aiutare in questo senso, no? Perché invece appunto è abbastanza istintivo quello di avere paura, no? Di quel passaggio fra la veglia e il sonno. Sì. La notte probabilmente da noi anche è molto simbolicamente è molto importante, anche perché svuota, cioè si crea spazio la notte rispetto all'assembramento, all'horror vacui che noi abbiamo un po' durante, ecco, il giorno, mentre la notte apre, è come se noi vedessimo tra le cose, tra degli spazi liberi, quindi noi le cose, allora anche le cose, diciamo, nostre spirituali, intime, possiamo allora spostare, le possiamo vedere. Beh, forse siamo più vicini a noi stessi, perché il giorno siamo presi da tanti altri impegni, quindi pensiamo a tante altre cose e non... Sì, è come se la rete forse avesse delle maglie più grandi, quindi riusciamo a vedere, riusciamo a percepire al di là e riusciamo un po' a diventare più padroni di quello che avviene sia dentro di noi che fuori di noi, insomma adesso conoscenza. Io che lavoro spesso di notte, si lavora molto meglio, c'è meno rotture, sono meno storie, meno disturbi, no? Meno... Io quando per anni ho dipinto di notte, no? Iniziavo con alle 8, verso le 8 a impastare i colori, alle 8 della sera, e mi sono sempre sentito privilegiato quando gli altri sono obbligati a dormire perché hanno lavorato, mentre io non facendo solo il pittore potevo dormire pomeriggio. Invece io ho vissuto... Quindi potevo entrare, avevo l'accesso a questo mondo di sospensione del tempo, dello spazio, come dice lui, si allarga e il brusio finisce e c'è un'altra dimensione. È un privilegio. C'è da dire una cosa, che quando noi dormiamo, ok, ci spegniamo, in realtà però ci sono dei nostri organi che lavorano molto di più, ma anche il cervello, a parte il cervello, ma soprattutto i reni. Io risolvivo i problemi quando andavo a scuola, le espressioni la sera non le facevo e la mattina c'era la soluzione, cioè perché no, il cervello sì, lavora, quello sì, rilassato, sì, e poi però verso le 8 la fibra cerebrale ad aumentare. Io non ci ho fatto caso, poi piano piano me ne sono resa conto, allora li facevo sempre poco prima di andare a dormire apposta, quando poi non venivano andavo a dormire la mattina. Sì, rientra nella notte porta consigli. Sì, invece ho vissuto per 3 anni solo di notte, cioè mi facevo tutte, era parecchi anni fa, mi facevo tutte le feste di Roma, più tutto sempre di notte, andavo a dormire alle 6 di mattina. Quando ho iniziato a vivere di giorno, mi sembravano tutti cretini quelli che vivevano di giorno. No, che non conoscevano tutta una parte che loro vedevano magari in televisione il giorno, io me la frequentavo la sera. Però no, mi sentivo vampira io, nel senso che non, non capivo più i linguaggi, le cose, cioè la percezione, la percezione è proprio differente, è vero, sembrava questo. Tutti pazzi. Il vampiro, questi... brava, il vampiro. Scusate, vampiri, prima che andiamo nei vampiri volevo concludere il discorso, sì, perché sì. A parte il cervello, che vabbè, chi se ne frega in questo senso, e ci sono due organi che sono il fegato e i reni, che lavorano molto meglio di notte, ed è lì che loro veramente possono, fanno quello per cui sono stati, sono lì. E la notte poi c'è un'oggettività che di giorno ci sono dei disturbi dal punto di vista anche energetico, il sole, per cui anche se noi dormiamo questi organi hanno bisogno di più tempo, quindi chi dorme di giorno in realtà, perché il fegato possa fare il lavoro che riesce a fare di notte, c'è bisogno di molto più tempo, quindi in realtà la notte da noi, per come è fatta qui da noi, è il periodo migliore per dormire, per far lavorare questi organi. E questi organi non sono una parte marginale nostra, no? Perché questi depurano, sì, sì. Fanno un lavoro molto importante. A me sembra di notarlo, e non posso giurare che non sia la questione di abitudine, però a me comunque quando capita di star sveglio di notte, bellissimo lavoro, sì, fantastico, belle idee, io di giorno dormo meno bene, sì. E sono come, è come se mi risvegliassi meno purificato. Ma poi vai avanti per qualche giorno a ripigliare. No, anche da studi fatti, anche un ciclo di sonno, anche interrotto per 10 minuti equivale come a non dormire affatto. Vedi. Un ciclo di sonno la notte, anche interrotto per un quarto d'ora. Chi ha avuto figli ne sa qualcosa. E il sonno poi perso non si recupera mai. È vero. Mai. Nel senso che ho l'impressione che anche, adesso non è moralismo, è oggettività, questa abitudine, no, di essere molto scombinati la notte, in qualche modo poi si paga da un punto di vista di depurazione, perché appunto questi organi non riescono a lavorare. Posso morire, ragazzi, pensando a questa bella notizia che sto sul punto di morte. Poi il caffè è nero, no, il contro la notte. Il caffè è nero e cela con la notte, perché non ti fa dormire, no? È il nemico della notte. È lungo in modo banale. Sì. Sicuramente, però, con tutti gli organi a posto, come era il giorno da becco, c'è da leone, c'è da leone, c'è da leone. No, allora ragazzi, l'altra volta, scusate, l'altra volta abbiamo fatto una puntata da 2 ore, che è troppo. Adesso siamo a 1 ora. Sentite di avere delle cose topiche, insomma, da dirci, delle cose prima che finiamo. I vampiri, per esempio, sono, ecco, un vampiri, simbolo molto forte di quanto la luce può essere fatale. Loro si chiudono nella tomba per essere al buio totale, no? Nella bara, e vivono di notte. Quindi no, lui proprio sono simbolici. Sì, ma questa cosa della, cioè, questi organi che lavorano alla, mi piace molto, insomma, alla pulizia, alla cura di sé, alla cura di sé, no? E in più, appunto, vivere, lasciare spazio a questi organi di fare il loro lavoro, che si prendono cura, appunto, della persona, e in più, appunto, avere la possibilità di dormire e di sognare, beh, mi sembra che la notte sia un paradiso, o no? Una gran figata, però il discorso del fegato che lavora di notte, in realtà non è tanto la notte quanto il sonno, perché quando noi siamo svegli, mangiamo, facciamo, eccetera, sì, il fegato sovraccarico, quindi non può fare tante cose, però se tu fai una bella pennichella, ti svegli da Dio dopo, va bene lo stesso, ti senti rinato in realtà. Certo. Scusami, non volevo assolutamente contraddirti, però penso sia legata più al sonno. Sì, sì, che però non ci sono delle oggettività di che si dorme meglio di notte. Sì, che chi riesce a dormire la notte. Io a volte dico, non aspetto l'ora che venga domani, proprio perché non sopporto a volte la notte, proprio perché è pesante da perché poi come un cane si morde la coda, hai paura di non dormire, che ore sono? Sono le 2, cazzo, sono ancora sveglio, sono le 3, le 4, cavolo, e poi a volte ti svegli lo stesso, però sei stanco, quindi la notte insomma... Io invece provo un grande senso di piacere andare a dormire, ma proprio di beatitudine completa, completa, proprio. Che lo dici? Eh? Volevo leggere una poesia. Ma proprio la felicità per me il letto. Cioè, proprio la felicità, dormire copertina, girata. Una poesia 9 ore tutte in un piano. Su quelli che sono andati a dormire. Aspetta, aspetta che. Aspettiamo che. Una poesia tua. Ho trovato questo vecchio libro di liriche giapponesi. E casualmente, essendo una raccolta di poesie miste, ci sono anche poesie sulla notte. E qui c'è proprio una poesia su quelli che vanno a dormire. Grande. Beh, la leggo, poi dopo la rileggo. La rileggo. Si chiama Io e la Luna. Io e la Luna. Sì. Sono quelle poesie brevissime, non so se sì. Hai. Tutti sono andati a dormire. Non vi è più nulla che disturbi il mio colloquio con la luna. È interessante. Questa è una poesia di una poetessa del che bellezza. XIX secolo. Dice tantissimo. Non vi è più nulla che disturba il mio colloquio con la luna. Quindi la notte è una cosa positiva. Porca miseria. In questo caso è il nostro Luna Park. Si permette di contemplare cose che di giorno non puoi percepire, un mondo altro. Io ricordo che da bambino ero appassionato di radio e aspettavo proprio che venisse la notte, perché la radio va via la schermatura, il disturbo del sole, no? E venivano fuori, cioè la banda che era del tutto vuota tranne le solite Rai, no? La mattina, di notte si riempiva, sentivi anche la radio cinese. Questo sole si toglieva dalle scatole, no? E il colloquio non era con la luna, era come una luna con la radio. Sì. Era con la scatola magica. Esatto, della radio. Sì, sì, perché c'è più spazio per più cose, no? Sì, è un mondo diverso. Sì. Come quelli che c'era una battuta su Facebook, no? Dice, ma quelli che scrivono buongiorno mondo lo sanno che dall'altra parte no. Facciamo la suonata per concludere. Facciamo una suonata per concludere. Una suona un notturno. Ecco, allora volevo leggere un'altra poesia che è un contrasto. Parla dell'aspetto negativo della notte. Ah, dai. Sentiamo un'altra poesia di un tizio che si chiama Kushu Kiyatara, non so che nome di sia, del 1800, insomma. E invece lui parla dell'angoscia della notte. Venuta la notte, ho pianto, una paura indicibile. In un mondo così bello, perché la notte tenebrosa può mai cadere? Per una paura indicibile, venuta la notte, ho pianto. È un po' l'opposto di quell'altra di prima, sì. Che diceva... Che era la tutti la sono già andati a dormire, non vi è più nulla che disturbi il mio colloquio con la luna. E per fortuna. Sono due modi diversissimi di vivere la notte, uno angoscioso e uno quasi di rivelazione, di... Perfetto. Apertura verso un nuovo mondo, verso un... E ci sono tutti e due. Ah sì, sì. Infatti l'uomo è questo, no? Infatti, è condivisione. Tu una notte puoi stare in un modo, un'altra notte anche noi può cambiare la visione. Dal nostro stato, come si dice, buonanotte. Esatto. Ecco, adesso ci sono due vite la notte. Tutta avventura, però ci sono tante teste. Sono un animale notturno, di bianco verde, di delle abbiamo parlato per... Silenzio.